Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Si chiama Graicle ed è una macchina che trasforma i rifiuti indifferenziati in granuli di materia prima, separandoli automaticamente grazie a un mix di tecnologie meccaniche, ottiche ed intelligenza artificiale, eliminando la necessità di compiere a casa nostra la raccolta differenziata manualmente. Graicle è anche il nome della startup che sta mettendo appunto questo sistema, e per parlarcene siamo in linea con Daniele Pes, cofondatore di Graicle, dove è responsabile di marketing e finanza. Buonasera Daniele. Buonasera Maurizio, buonasera agli ascoltatori. Allora, per prima cosa ti chiedo di descriverci un po' questo sistema, aiutaci anche a visualizzarlo, dato che siamo in radio e insomma immagini a disposizione non ne abbiamo. Allora, noi abbiamo realizzato un macchinario, quindi un insieme di meccanica, elettronica e informatica piuttosto sofisticato, che di fatto realizza su una scala molto ridotta ciò che normalmente avviene su impianti industriali di dimensioni imponenti, quindi qualche capannone industriale. E di solito questi capannoni sono la parte terminale di una lunghissima filiera che inizia nelle nostre case, una filiera lunga, costosa e molto poco efficiente. Noi abbiamo infilato tutto in una macchina che nella sua versione attuale è arrivata al quarto prototipo. È una macchina che inverte in realtà ciò che avviene nei capannoni industriali, ovvero trita tutto l'indifferenziato a monte di un processo locale che nello stesso posto che cosa fa? Seleziona le singole scaglie e le separa in automatico. Quindi una macchina che in ingresso riceve l'indifferenziato e in output genera scaglie di materie prime separate con un discreto grado di purezza e pronte ad essere reimmesse nei processi di produzione industriale. Ecco, puoi dirci qualcosa di più proprio di come funziona questo sistema? Quanto è grande anche questa macchina? Il prototipo attuale è alto 1,5 metri e ha un diametro di 25 centimetri, quindi è poco più grande di un elettrodomestico, poco più ingombrante. Il processo è questo: la macchina accoglie i rifiuti indifferenziati, li trita in una prima camera generando scaglie di dimensione variabile, appunto di materiale indifferenziato. Queste vengono poi accolte in una camera di filtraggio che è elettromeccanica, che vibra e ha una geometria piuttosto elaborata che consente di pre-separare le scaglie per categorie di sottocategorie di dimensioni omogenee. Quindi ecco, granuli un po' più grossi, granuli un po' più piccoli, confermo, medi e così via. Perfetto. Le scaglie si fatte poi vengono lasciate cadere in mini camere che vengono immerse in luce generata da lampade al tungsteno, perché questa luce a bassa potenza, questa luce sta in campi di frequenza adeguati per poter essere letta da dei mini spettroscopi, che sono grandi quanto la punta di un mignolo. Gli spettroscopi sono gli stessi strumenti che noi utilizziamo per guardare i pianeti e capire, in base alla luce riflessa dai pianeti, di cosa sono fatti i pianeti. Ecco, noi abbiamo miniaturizzato questa tecnologia e su piccolissima scala riusciamo a capire in automatico, in base alla luce rifratta, qual è la natura del materiale. Quindi che compone frammento per frammento voi riuscite a capire di che cosa è fatto, e in funzione del materiale che è fatto viene messo poi da parte, diciamo, in un serbatoio ad hoc. Quindi io dentro potrei buttare 10 materiali diversi e in uscita mi troverei 10 mucchietti di granuli, diciamo così, separati appunto per materiale. È corretto? Corretto. Un esempio molto efficace è quello della classica bottiglietta da mezzo litro d'acqua. Noi normalmente, cittadini ben educati, comprimiamo e infiliamo nel sacco della plastica. Se si mette nella nostra macchina, in Graicle, la bottiglia della plastica, ciò che si ha in output sono 3 mucchietti composti di esemplari di plastiche diverse, che hanno peraltro un valore economico diverso. Quella del tappo, che è la più costosa, il corpo della bottiglia e poi magari l'etichetta di plastica, che è un'altra plastica ancora. Perfetto. Confermo. Ecco, su che tipo di rifiuti opera in questo momento il vostro macchinario? Qualunque tipo di rifiuto? No, allora, per 3 anni abbiamo lavorato sulle plastiche e adesso siamo in grado sostanzialmente di riconoscere tutti i tipi di plastiche e di separarle automaticamente anche per colore. Ci stiamo finanziando in questo momento con una campagna di crowdfunding proprio per chiudere la fase di sviluppo, perché la fase di ricerca è già completata, chiudere la fase di sviluppo integrando nuova sensoristica che ci consentirà di automatizzare il riconoscimento di nuove categorie di materiali. Nello specifico, in ordine di priorità, evidentemente dettato dal valore economico dei materiali che andremo a separare, prima i metalli e poi il vetro. qual è il modello di utilizzo di questo sistema? In che punto, diciamo, della filiera della raccolta dei rifiuti voi pensate che debba essere innestato un sistema di questo genere? Dobbiamo averlo tutti in casa? Dove vedete il posizionamento? Allora, alla base della nostra tecnologia sta l'idea di portare appunto una tecnologia abilitante a monte della filiera, perché se noi riusciamo a ritrasformare i nostri scarti immediatamente, abbattiamo di almeno 10 volte l'impatto dovuto alla raccolta, al trasporto, ai costi, al trattamento lungo la filiera, appunto lunga e inefficiente. Quindi c'è un aspetto non banale, che ridurre, diciamo, in polvere praticamente i rifiuti ne riduce il volume di 10 volte, quindi per esempio il trasporto diventa molto più efficiente. Beh, il camion, anziché venire una volta al giorno nel tuo condominio, passa una volta ogni 10 giorni. Questo dovrebbe rendere facilmente l'idea dell'abbattimento sull'impatto ambientale che avremmo. Però il valore grossissimo lo si ha, oltre che in termini di impatto ambientale, lo si ha derivante dal fatto che si genera materia prima riutilizzabile con una discreta purezza. Per rispondere alla tua domanda di prima, idealmente sarebbe fantastico se noi potessimo avere questa tecnologia in casa nostra, però anzitutto sul piano normativo questo non è consentito. Bisogna dire che però il legislatore sta facendo passi da gigante, quantomeno li ha fatti di recente nella direzione in cui stiamo andando noi. No, diciamo, se il furgoncino che passa a raccogliere i rifiuti potesse già fare al momento della raccolta questo tipo di operazione, già sarebbe, diciamo, un grosso passo avanti. Il furgoncino sarebbe il luogo ideale, perché lì non avremmo i vincoli normativi che in questo momento, per obsolescenza appunto normativa, ci impediscono di infilare la tecnologia in casa. Altri posti potrebbero essere, e in questo senso abbiamo già delle collaborazioni in essere con un partner che si chiama Napoletana Plastica, l'isola ecologica adesso è sostanzialmente un grande bidone. Se ci infiliamo dentro la capacità di riconoscere in automatico i materiali, stiamo rendendo un grandissimo servizio. Oppure potremmo un giorno infilarla nel back-end di un ristorante, appunto in un condominio, supermercati, condomini, certo. Ecco, ma mettere proprio tutti i rifiuti assieme non rischia di peggiorare comunque la qualità della raccolta differenziata? Faccio l'esempio forse più problematico, no? L'organico insieme alla carta di giornale, si sporca la carta di giornale, non si ricicla più altrettanto bene. Allora, il nostro obiettivo a tendere è quello di avere una macchina che sia in grado di accogliere e separare automaticamente tutti i rifiuti indifferenziati. Evidentemente la variabilità dei materiali che stanno nei rifiuti indifferenziati aggiunge delle complessità al nostro lavoro. Ad esempio, in questo momento stiamo lavorando per indirizzare il problema delle capsule di caffè esauste, e quindi stiamo parlando di una combinazione di alluminio, plastica e polvere non arida di caffè. È evidente che ci aggiunge una complessità dal punto di vista tecnologico, la stiamo risolvendo con un altro partner che è Miami Ristoro. Si tratta di, facendoci guidare dalle richieste di specifici settori di mercato, categorie merceologiche, introdurre la capacità di risolvere queste complessità un settore alla volta. Quindi impareremo adesso a trattare le polveri e poi, tramite un circuito idraulico che abbiamo progettato chiuso, lavorare con i solventi per riuscire a ripulire le superfici. Certo che se abbiamo del materiale che assorbe altre sostanze collose, la purezza del semilavorato in uscita non potrà essere al 100%, però comunque sarà un ordine di grandezza migliore rispetto alla purezza dei materiali che adesso abbiamo selezionati in uscita degli impianti industriali. Insomma, la pizza sarà l'ultima cosa che separerete, pomodoro, mozzarella e così via. A che punto siete dello sviluppo della vostra idea? Ora appunto ci stiamo finanziando lo sviluppo, la seconda fase del nostro sviluppo, per integrare nuova sensoristica e la possibilità della tecnologia di scalare per volume, perché categorie diverse di mercato richiedono capacità di ingestion diverse, quindi dobbiamo cambiare l'elettronica, molto banalmente anche la meccanica della macchina, affinché scali. Affronteremo questa seconda fase della nostra vita un mercato per volta. Citavo appunto prima quello delle capsule di caffè esauste, ma esistono molti altri mercati affascinanti, ad esempio quello del packaging della cosmesi fa dei numeri che sono 100 volte più grandi di quelli delle capsule di caffè. E poi dovessimo imparare ad esempio anche solo a trattare gli occhiali, avremmo risolto un altro enorme problema in termini di impatto ambientale e di domanda di mercato. Al termine di questo percorso, che noi con la roadmap attuale prevediamo di raggiungere per il 2022, noi contiamo di aver realizzato una versione generalista ormai della tecnologia, capace di raccogliere e gestire abbastanza categorie di materiali indifferenziati da poterci consentire, con l'aiuto dei partner in essere e quelli che saliranno a bordo lungo questo percorso, ci consentiranno di produrre, quindi industrializzare, produrre e commercializzare una versione generalista della nostra tecnologia. Grazie Daniele Pes. Grazie a voi, buona serata. Va bene, cari ascoltatori, abbiamo concluso anche per questa sera. L'appuntamento, come sempre, è a domani. Buona serata.